Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. L'estero comunque ti permette di confrontarti con culture diverse, approcci diversi, ti permette la diversità, mentre in Italia fondamentalmente c'è un po' un limite, diciamo, di è tutto molto locale, molto regionale, molto provinciale. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. L'avete appena ascoltata, la voce di Nazareno, raccolta da Claudia Vanni nel corso del recente meeting degli oltre 400 studenti ed ex studenti di 21 tra le più importanti scuole internazionali svoltosi in Liguria. Nel corso delle prossime settimane sentirete molte delle altre interviste realizzate durante la manifestazione. A questi studenti abbiamo chiesto di giudicare l'Italia e le opportunità che offre rispetto a quelle che hanno sperimentato all'estero. Oggi il nostro focus sarà proprio sulle carriere internazionali. Lo faremo con una storia che arriva dalla Francia. La frase della settimana è copyright del ministro del lavoro Giuliano Poletti. Il problema dell'Italia è che da molto tempo le classi dirigenti hanno deciso di non decidere. Questo favorisce lo status quo e le rendite di posizione. Dobbiamo spingere le aziende a cambiare, prendendosi il rischio di far entrare i giovani nei processi decisionali. Cambiamento e rischio, due parole chiave sulle quali insistiamo da anni. Fa piacere sentirle anche nel dibattito politico. C'è allarme del Consiglio Universitario Nazionale. In Italia pochi laureati. Tra i 30 e i 34 anni solo il 22% ha ottenuto il titolo contro il 36% della media europea. Nell'ultimo biennio le immatricolazioni sono persino calate del 5%. A ciò si aggiunge la poca richiesta di personale ad elevata specializzazione. Solo il 24% dei manager italiani è laureato. Questo nonostante i paesi che investono nel sistema universitario ne ricevano un guadagno. A fronte dei costi sostenuti dallo Stato per la formazione, il ritorno netto dalle tasse è di $91,000 per laureato. L'Istat aggiunge poco più della metà dei giovani diplomati si iscrive all'università. Tra le under 30 la quota di laureati tra gli uomini non arriva al 20%. E l'equazione purtroppo è semplice. Meno capitale umano qualificato uguale meno attrattività del sistema Italia verso i suoi migliori talenti. Nel mio campo è necessario comunque lavorare in un contesto internazionale. Non penso che l'Italia abbia... La vedi un po' provinciale, mi sembra di capire. In un certo senso sì. Silvia Macri, 34 anni, è Senior Research Analyst per una società internazionale di ricerche di mercato in Francia. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Boom dei camici bianchi. In fuga dall'Italia sono stati 2.363 i medici italiani che lo scorso anno hanno fatto domanda al Ministero della Salute per trovare lavoro all'estero. Una vera impennata nell'ultimo quinquennio. Sono nei fatti sestuplicati. E attenzione, questi numeri tengono conto solamente di chi si è trasferito nei paesi europei. Chi va a lavorare altrove sfugge ai calcoli. A rivelarlo il quotidiano La Repubblica. Per Francesco Corcione, presidente della società di chirurgia, nel 2010 il numero di assunti di ruolo in chirurgia generale ha coperto il 10% del fabbisogno e il 20% in quella specialistica. Si calcola che i maghi del bisturi a mancare all'appello arriveranno a 34.000 in un decennio. Anche per questo l'espatrio diventa una strada sempre più apprezzata tra i giovani chirurghi. Uno specializzando italiano guadagna la metà di un collega inglese. Focus sui giovani dentisti, mal pagati e sempre più in difficoltà nel trovare lavoro. Quasi il 40% di loro, a un anno dal titolo di laurea, non trova un posto regolare e lavora con contratti precari o in nero. E quanto emerge dal rapporto Euroescao, gli dentisti neolaureati guadagnano sempre meno, 1.058 euro mensili. Per la Fondazione Giorgio Pardi i giovani ricercatori non vengono selezionati, valorizzati, motivati e specialmente aiutati. Perciò si verifica la fuga all'estero che spesso si accompagna al mancato ritorno nella penisola. Secondo lo studio in Italia il 30% dei ricercatori non svolge più alcuna attività di ricerca, il 39% continua a farla gratuitamente, solo il 14% con opportuni finanziamenti, infine l'8% vive all'estero. Negli ultimi 10 anni si è verificato un vero e proprio esodo dagli atenei italiani. Su 100 ricercatori precari d'università ne ha espulsi oltre 93 e a causa del blocco della turnover i nostri atenei lo scorso anno hanno perso tra docenti e ricercatori oltre 2.000 unità. Sono aumentate esponenzialmente invece le forme contrattuali più precarie. Questi alcuni dei dati emersi dall'indagine Ricercarsi di FLC-CGL che certifica oltre il 60% dei ricercatori italiani alla propensione ad andare via dalla penisola. Problemi anche in Spagna, dove nell'ultimo triennio si è registrata un'autentica emorragia, persi oltre 11.000 ricercatori a tempo pieno secondo i dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica. I giovani italiani sono sempre più disillusi rispetto alla possibilità di trovare lavoro nella penisola e sempre più disponibili a guardare oltre confine. E quanto emerge dal secondo rapporto giovani dell'Istituto Tognolo. A Giovani Talenti parla Alessandro Rosina, professore di demografia tra gli autori della ricerca. Continua e si rafforza la disillusione dei giovani rispetto alle condizioni che trovano in Italia. L'85% si dichiara convinto che le opportunità in Italia per persone con la propria formazione siano scarse e limitate, e il 70% circa pensa che difficilmente l'Italia entro i prossimi 3 anni avrà un rilancio. Questo però non vuol dire che i giovani siano rassegnati, anzi c'è la voglia di credere in se stessi e di produrre risultati concreti è alta, però cresce appunto la frustrazione per il sottoutilizzo delle proprie potenzialità. Cioè, l'idea è come quella di essere in un labirinto. C'è un dato sulla propensione dei giovani italiani ad andare all'estero? Bene, i dati sulla propensione ad andare all'estero sono quelli di una quota rilevante di giovani, attorno ormai al 50%, che prevede alla fine degli studi la possibilità di fare un'esperienza oltre confine, ma c'è poi un 80% di giovani che afferma che più che aspettare in Italia che le cose veramente cambino, se si vuole veramente migliorare il proprio futuro, è meglio prendere in considerazione la possibilità di andare in un altro paese. Noi aggiungiamo che il programma Garanzia Giovani ha superato intanto quota 400.000 iscritti. Il ministro del Lavoro Poletti ha promesso un rilancio dell'iniziativa. La storia di Giovani Talenti di questa settimana è un concentrato di elementi dal sapore internazionale e anche medio orientale. 10 anni di vita e lavoro all'estero in 5 paesi diversi, conditi da un'indole inquieta. Nome: Silvia. Cognome: Macri. Età: 34. Città di origine: Chiaravalle Centrale in Calabria. Studi: relazioni internazionali. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2005. Per andare dove? In Inghilterra. Perché? Migliorare la lingua inglese. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono analista in energie rinnovabili. Dove? A Parigi. Tornerai? Probabilmente no. Da expat a un certo punto diventa quasi una filosofia di vita. Purtroppo non esistono confini o limiti, perché cambiare è più facile che adattarsi. Silvia, oggi a Giovani Talenti parliamo di carriere internazionali, ma non solo. Vedremo più tardi quanto sia difficile adattarsi anche a un ritorno nella penisola. Uscita dall'Italia non solo come fuga, ma anche processo naturale per un giovane che vuole mettersi alla prova su un palcoscenico globale in questo nuovo millennio. Lo consiglieresti, Silvia, un percorso come il tuo? Sicuramente l'esperienza all'estero è un'esperienza importante e si fa sempre in tempo a ritornare, ma nel momento in cui si decide di partire è meglio partire. Riavvolgiamo il nastro della tua storia. Dalla Calabria ti sposti a Forlì per studiare scienze internazionali e diplomatiche, non esattamente una laurea comune, verrebbe da dire. Perché una scelta del genere? La passione per le lingue straniere, mi è capitato di trovare una facoltà all'università che mi desse la possibilità di utilizzare le lingue per una professione un po' diversa rispetto all'insegnamento, alle professioni che si possono fare con una laurea in lingue. Ho completato gli studi in Italia perché credevo, e ne sono ancora convinta, che il nostro modello educativo abbia molti vantaggi rispetto agli altri, ci scrivi. Quali e soprattutto qual è il voto nel complesso al periodo di studio universitario da 1 a 10? Nel mio settore, la mia facoltà in particolare mi ha dato 2 vantaggi. Innanzitutto la preparazione teorica, secondo la possibilità di adattarmi a diversi contesti professionali. È chiaro che questo non vale per tutte le facoltà e per tutti i settori, ma sicuramente nel settore internazionale delle politiche e scienze internazionali è un vantaggio non trascurabile. E il voto da 1 a 10 all'università? Direi un 7. Quindi nessun pentimento per non aver intrapreso una carriera internazionale fin dagli studi in Ateneo? No, nessun pentimento, né di non aver fatto un'esperienza all'estero durante il periodo universitario, né di aver lasciato nel momento in cui mi sono laureata e ho dovuto cercare il mio percorso. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti. Subito dopo la laurea mi sono trasferita a Manchester per migliorare l'inglese e conseguire la certificazione linguistica, racconti a giovanitalenti@radio24.it. Da lì inizia un percorso che ti manterrà all'estero e che non ti ha più visto tornare, almeno per ora, in Italia. La svolta però vera arriva con il master in studi sul Golfo Arabo. Quale mondo ti si dischiude? momento in cui mi sono laureata ero già consapevole che la laurea, soprattutto con il vecchio ordinamento, non era sufficiente per essere competitiva e vendibile, tra virgolette, sul mercato del lavoro. Ho deciso di specializzarmi all'estero, ho deciso di scegliere un settore piuttosto di nicchia, eravamo soltanto 3 studenti quando mi sono iscritta al master, in realtà ad Exeter, e questa possibilità mi ha dato anche accesso a una comunità internazionale. Ho conosciuto diverse persone di diversi paesi, molti arabi, che mi hanno dato un'idea più chiara delle contraddizioni e anche del fascino che il mondo arabo può avere. Successivamente vieni selezionata per un programma di volontari ONU che ti porta fino in Egitto, vi resti un anno. Allora, di cosa ti sei occupata, ma soprattutto cosa ti ha insegnato quella prima esperienza di lavoro? Io mi occupavo di una campagna di sensibilizzazione ai cosiddetti obiettivi del millennio. Al di là dell'esperienza professionale, credo che la vita in Egitto, soprattutto come impiegata dell'ONU, mi ha dato la possibilità di vedere e di osservare la società egiziana prima della rivoluzione da una posizione privilegiata. Dall'Egitto al Libano, Beirut, 4 anni di lavoro come ricercatrice e giornalista presso la Middle East Economic Survey. Come vi sei approdata, ma soprattutto di cosa ti sei occupata? Un colloquio, ho conosciuto una persona che avrebbe diretto un ufficio di ricerca con base a Beirut della pubblicazione per cui ho lavorato successivamente. Dopo il colloquio quindi mi sono trasferita a Beirut e mi occupavo di ricerca all'inizio nel campo dell'energia e del gas naturale nel Golfo Arabo, e successivamente ho anche contribuito alla pubblicazione con degli articoli sia sull'energia, ma poi mi sono occupata anche di altre cose sempre all'interno del settore energetico nella regione. Consiglieresti un'esperienza di lavoro nel mondo arabo? Se sì, in quali settori? Il mondo arabo è molto particolare, quindi mondo arabo tra l'altro è una definizione piuttosto vaga della società e delle società di cui sto parlando. È un mondo particolare, se non si ha la passione per questo tipo di cultura direi che non è consigliabile, perché ci sono contraddizioni a cui non è facile adattarsi. In ogni caso ci sono dei posti in cui si può vivere bene, Dubai è uno di quelli, sicuramente una delle destinazioni più gettonate. Credo che bisogna scegliere quei settori in cui ancora gli italiani, noi italiani siamo piuttosto competitivi rispetto ad altri, quindi settori in cui c'è bisogno di creatività come il design e l'architettura, tanto per fare qualche esempio. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Silvia Macri, 34enne Senior Research Analyst per una società internazionale di ricerche di mercato in Francia. Una carriera assolutamente globale, quella di Silvia, che apre uno spaccato interessante sulle nuove professioni internazionali e su come intraprenderle. Ma la domanda finale resta sempre la stessa: c'è spazio per un simile profilo nella piccola e provinciale Italia? Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani talenti. Alla fine decidi di rientrare in Europa, fai application presso una compagnia internazionale specializzata in ricerche di mercato. Ti hanno preso subito, ma soprattutto con quale processo di selezione? Subito, relativamente. Il processo di selezione è stato piuttosto lungo, ho fatto penso 4 prove diverse, 2 sono stati colloqui per telefono, perché io allora ero di base a Beirut, e ho dovuto fare anche 2 o 3 prove scritte in cui mi hanno dato degli argomenti, ho dovuto scrivere delle analisi più o meno lunghe. Non è stato facile. Dunque, da Barcellona vieni trasferita 2 anni dopo a Parigi. Di cosa ti occupi ora? Ora mi occupo di energie rinnovabili in Africa e Medio Oriente, faccio ricerca e analisi per una compagnia internazionale. C'è una riflessione interessante che ci scrivi. Alla luce del mio percorso, non so se riuscirei a trovare spazio in Italia, non so se mi troverei a mio agio. La prima domanda è: hai mai provato a tornare qui? No, eccetto forse i primissimi tempi, ma non credo di aver mai provato effettivamente. Cosa non ti convince nell'ottica di un rientro professionale? Vedi forse l'Italia poco allineata ai migliori standard internazionali da un punto di vista lavorativo? Campo è necessario comunque lavorare in un contesto internazionale, non penso che l'Italia abbia... La vedi un po' provinciale, mi sembra di capire. In un certo senso sì. Domanda da $1 milione, allora: come rendere l'Italia un paese attrattivo inserito in una rete di circolazione globale dei talenti? C'è bisogno di una reputazione, bisogna costruirsi o avere una certa reputazione, quindi non è una soluzione che si può trovare dall'oggi al domani, credo. Come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire, Silvia. Il sistema sistema Italia non è attrattivo, poi dipende dai settori, chiaramente è giusto che l'Italia rimane ancora un centro importante per alcuni settori come la moda e la cultura, eccetera. Nel settore energetico ci sono delle condizioni che bisogna creare per far rimanere i giovani che hanno voglia di trovare un lavoro, ma anche per attrarre persone che sono attratte comunque dalla vita in Italia. Però la domanda è veramente difficile, fare in modo che diventi attrattiva, bisogna cambiare molte cose perché lo sia, perché lo diventi. Vediamo se ci può aiutare in questo Maria Chiara De Sando, Programs Assistant presso un'importante organizzazione internazionale a Roma. Buon pomeriggio Maria Chiara. Buon pomeriggio. Partiamo subito dalle differenze con la storia di Silvia, senza anticipare troppo. Perché in Italia hai deciso di tornare e te ne sei pentita professionalmente parlando? Essenzialmente, semplicemente sono tornata per amore dopo 4 anni all'estero e tanti anni di storia a distanza. E certo non sarei mai ritornata senza alternative, quindi nel momento in cui dopo tante ricerche ho trovato occupazione in Italia, ho colto l'opportunità ed ho deciso di tornare. La mia vita è migliorata dal punto di vista personale, però è precipitata da un punto di vista professionale. Ecco, non anticipiamo troppo. Okay. In breve la tua storia. Anche per te laurea in relazioni internazionali a Bologna, poi una carriera, al contrario di Silvia, molto più focalizzata sull'Europa e l'Unione Europea, tra Parma, Alicante e Bruxelles. Quanto quegli anni sono stati fondamentali per te? Sì, sicuramente le esperienze in Spagna, in Belgio, nelle agenzie e istituzioni comunitarie mi hanno formato molto di più di quanto sperassi o potessi immaginare prima di partire. Da un punto di vista umano ho migliorato le mie conoscenze linguistiche, ho conosciuto nuove culture, ho fatto nuove amicizie. Certo, provavo sensazioni di non appartenenza, ma mi sentivo ogni giorno di più parte di quelle città che mi ospitavano. Da un punto di vista professionale invece ho imparato a lavorare in un ambiente multiculturale, ad organizzare, a stabilire priorità e alle riunioni i miei interventi venivano ascoltati, considerati allo stesso livello di quelli dei miei colleghi più e avevi anziani. Appunto 20 anni, quindi eri molto giovane per gli standard italiani. Nel settembre 2013 uno dei pochi casi di italiani che rientrano in patria dopo un'esperienza all'estero, come ti definisci, scegli di tornare. Cambi contesto da un'organizzazione internazionale a un'azienda privata, questo lo precisiamo, ma il problema è anche un altro, quello della mentalità con cui ti confronti, che ti fa precipitare in un contesto assolutamente provinciale. Nel concreto, cosa non funzionava, Maria Chiara? Secondo me c'era un grande problema di cattiva gestione aziendale, soprattutto dal punto di vista delle risorse umane, perché i ruoli di rilievo e di responsabilità non erano ricoperti dalle persone giuste, con la necessaria esperienza e capacità. Non si aveva una visione d'insieme, non si riuscivano a prendere decisioni a lungo termine, si preferiva correre ripari piuttosto che pensare a strategie. Nel piccolo l'Italia, potremmo dire, questa azienda in cui sei finita poi quando sei tornata nella penisola, mi pare di capire nel piccolo sia un concentrato di problemi italiani. Sì, senz'altro, è così, si preferiva mettere le pezze piuttosto che costruire delle strategie un po' più lungimiranti a lungo termine, come dicevo prima. E la cosa più impressionante è che il confronto che hai con i tuoi amici al lavoro in Italia, scopri con sorpresa che il problema non è solo tuo e che la tanto auspicata meritocrazia non solo non esiste, ma addirittura c'è un concetto distorto. Come funziona, Maria Chiara, questa meritocrazia al contrario in Italia? Io credo che ci sia, che la meritocrazia non sia l'unico o il problema principale della questione del lavoro in Italia. C'è una visione distorta di questo concetto, perché spesso la meritocrazia è legata alla sola anzianità e all'attaccamento aziendale piuttosto che al miglioramento personale, allo sviluppo professionale. Cioè si parla tanto di posto fisso senza mai legarlo alle vere esigenze del personale, ad un salario degno, all'importanza della qualità e della serenità dell'ambiente di lavoro. Arriviamo al lieto fine. Dopo un anno escludi un rinnovo del contratto in azienda, così ti metti alla ricerca di un altro lavoro e dopo soli 2 mesi vieni assunta alla sede di Roma di un'organizzazione internazionale che aiuta i paesi in uscita dai conflitti a ripristinare lo stato di diritto. Di cosa ti occupi? Ma soprattutto ti chiedo, hai ritrovato un ambiente di lavoro stimolante, meritocratico, internazionale? Sì. Io sono Programs Assistant in questa organizzazione intergovernativa e devo dire che quindi il mio desiderio di lavorare in un ambiente internazionale senza per forza dover rilasciare l'Italia si è avverato. Insieme ad un'altra collega supportiamo e coordiniamo un team di circa 35 persone e il mio lavoro mi stimola perché ho diverse mansioni di coordinamento, amministrative, gestionali, organizzative, ricevo formazione, c'è flessibilità di orari, ho colleghi che vengono da tutto il mondo, non ho il contratto a tempo indeterminato e quindi non ho la certezza di rimanere a Roma per sempre, ma intanto il fatto di poter andare al lavoro serenamente mi rende più vitale, più serena e generalmente più soddisfatta. Il cambiamento siamo noi, tocca a noi fare la nostra parte, non si può più aspettare che arrivi dall'alto, rifletti Maria Chiara chiudendo la lettera che ci ha inviato. Quale responsabilità avete voi contro esodati in Italia? Potete incidere positivamente su questo cambiamento? In due parole. Io credo molto nella condivisione delle responsabilità e nella partecipazione. Noi contro Isodati abbiamo il privilegio di poter fare un confronto tra l'Italia e gli altri paesi e sappiamo magari meglio di chi non è mai emigrato cosa può essere costruito o migliorato. Detto ciò, quando parlo del cambiamento e dico che il cambiamento siamo noi, mi riferisco alla necessità di essere coinvolti nella vita politica e sociale del paese, di partecipare, di mettersi in gioco. Insomma, non basta solo lamentarsi o indignarsi sui social network. Grazie a Maria Chiara De Sando e in bocca al lupo soprattutto. Domanda di rito per Silvia Macri: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Sicuramente imparare l'inglese, ma seriamente diventa essere quasi bilingue e specializzarsi in un settore e soprattutto andare all'estero con un progetto, perché l'esperienza all'estero può anche essere deludente. Quindi non andare a cercare un lavoro che comunque in Italia non si farebbe, cercare qualcosa per cui si ha veramente la passione e si ha voglia di fare, perché altrimenti andare all'estero potrebbe essere anche un'esperienza boomerang per i giovani. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un direttore esecutivo per InHope, la International Association of Internet Hotlines ad Amsterdam, scadenza per CV dopo domani, info su inhope.org. Un ingegnere esperto nel sistema frenante dei treni per Bombardier a Valenciennes in Francia, scadenza per CV 6 marzo, info su jobs.bombardier.com. E infine un professore di chimica organica all'Università di Graz in Austria, scadenza per CV 18 marzo, info su jobs.uni-graz.at. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi andiamo a conoscere meglio il mondo dei nostri professionisti in Estremo Oriente. Focus dunque sull'associazione Giovani Italiani in Cina, che raggruppa 150 connazionali sparsi nelle varie metropoli e megalopoli cinesi. Adriana Bertolino, coordinatrice del consiglio dell'associazione. L'associazione Giovani Italiani in Cina, detta AGIC, nasce il 9 marzo del 2013 da, diciamo, un mosaico di diverse entità ed esperienze ed è intenzionata, diciamo, a creare uno spazio di incontro e condivisione per i giovani italiani, europei e cinesi in territorio cinese. Chi compone questa associazione? Che tipo di giovani professionisti italiani ne fanno parte? Diciamo che spaziamo da studenti a coloro che sono appena arrivati in territorio cinese per internship, stage o chi è già qua sul territorio e lavora qui da parecchi anni come expat. L'età media? Età media andiamo dai più o meno 19-20 anni, quindi coloro che sono arrivati come studenti, e fino ai 40 e oltre. Perché vengono in Cina? Cosa cercano? Le prospettive sono varie. Credo gli studenti, la maggior parte sono appunto per magari perfezionare la lingua piuttosto che fare un'esperienza all'estero in un paese molto dinamico, all'avanguardia, in forte crescita a livello internazionale. Per quanto riguarda chi ha prospettive lavorative, diciamo, è più una cosa soggettiva, ha probabilmente anche un desiderio, uno slancio di carriera piuttosto che... Secondo te sono in fuga dall'Italia, cercano delle opportunità in Cina o è più voglia di scoprire un mondo nuovo, Oriente? Io credo che sia più la voglia e la curiosità di scoprire la Cina. E offre ancora opportunità oggi la Cina? Io credo che non smetterà mai di offrirne, per cui sì, ancora oggi è una fonte di opportunità per tutti coloro che fossero interessati. Credo che questo sia il messaggio da trasmettere. Invece quali servizi offre la vostra associazione a chi arriva? Insomma, come aiuta anche poi magari concretamente o come rappresenta i giovani italiani in Cina? Noi in realtà abbiamo una serie di attività che svolgiamo durante l'anno e soprattutto appunto per i neo arrivati cerchiamo di organizzare non solo degli appuntamenti mensili che vanno da happy hour a comunque anche diciamo momenti di ritrovo come le assemblee piuttosto che anche momenti culturali, ma anche siamo una piattaforma nella quale si possono scambiare idee, pareri su opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.assogic.com. Un motivo per restare o tornare. Istituita all'interno del recente decreto legge sugli investimenti la categoria delle PMI innovative che potranno accedere a buona parte delle semplificazioni e agevolazioni oggi riservate alle start-up create da non più di 4 anni. Tra queste la riduzione degli oneri per l'avvio d'impresa, le forme alternative di remunerazione e la possibilità di raccogliere capitali su portali online con il cosiddetto crowdfunding. Definiti infine con chiarezza i parametri necessari a rientrare nella categoria PMI innovative, tra queste la quota di spesa minima in ricerca e sviluppo.